Suono che chiaramente si così si attorciglia quasi su se stesso, appunto concludendo nello svuotamento. Sono poi tra l'altro decisamente carico quello di Ultra, carico anche di tante suggestioni di pieno insomma vigore rispetto a forme jazzistiche che comunque si intravedono dentro il collage musicale, come d'altronde il papà negato all'industrial del collage sonoro, ovvero una suite che Ultra insomma per tanti aspetti riprende, come poi per molti aspetti invece riprende in maniera più brutista certe faccende magari legate a collaborazioni tra White House e una suite con il disco famoso dedicato a The Sad, con copertina ultra censurata, così tiriamo fuori anche un altro ultra, però in questo caso aggettivato, e Sindacata appunto si rifanno a quel momento brutista, creando anche poi una specie di non di scuola, perché insomma sarebbe un po' troppo azzardato chiamarla tale, però di corrente dentro l'industrial, quindi poi d'altronde tante volte sia dentro 451 frammenti sonori, ma anche dentro 451 intersezioni, anche nelle storiche insomma trasmissioni, spero che insomma più o meno abbiamo fatto capire che molto industrial ha diramazioni veramente notevoli, che possono andare da una certa dance techno e a noise più ottundente, power electronics, a momenti più collagistici, appunto, quindi legati più all'avanguardia tout court, come momenti insomma che hanno dato il via molto molto metal, a molto crossover poi, e anche forme insomma di vagheggiamenti jazzati, appunto prima ascoltati con Ultra, che potevano anche così appartenere a altre situazioni industrial, quelle edite dalla Rare Record, quindi, e anche qua mettendo dentro Chris Clutter, storico Harry Coe, e facendo insomma varie che veramente ci porterebbero anche molto lontani. Sempre parlando appunto di industrial, quindi si capisce anche bene quanto sia ampia e quanto ancora abbia un potenziale molto forte questa avanguardia insomma espressa musicalmente, questa forma sperimentale, partendo insomma dalla fine degli anni 70. E le Syndicate appartengono a quella diramazione che fu coniata da Ramle, ma anche appunto da, citavo prima, White House in collaborazione con Nana Sui Tun, Ramle però soprattutto con la sua Broken Flag farà del brutismo sonoro, quindi della cacofonia portata a un impatto appunto brutale, una forma d'arte piuttosto complessa. Broken Flag pubblicherà molte cose interessanti, anche il nostro Tognutti con il suo capolavoro come La Mutazione, ma molti lavori dello stesso Ramlet passeranno appunto da questa storica etichetta Broken Flag, anch'essa insomma piena di rimandi attuali e piena anche insomma di culto, con ristampe anche che stanno portando un ascolto anche più attento, se vogliamo, col senno poi di poi, che che per molti aspetti, se insomma di senno si tratta, ci portano anche così a riascoltare, ripensare molte musiche legate così dentro un calderone che a un certo punto è stato chiamato per comodità industrial, che invece ha molte caratteristiche particolari, come quella appunto di Le Syndicat con il loro Rectal Strangle. Abbiamo fatto appunto un accenno a Broken Flag proprio perché la cassetta fu edita proprio da questa storica etichetta, dove appunto la brutalizzazione del suono assurge a forma d'arte anche piuttosto complessa, anche piuttosto affascinante nel suo appunto brutalizzarsi. Thank you.

non è la radio che funziona male, riprendendo una vecchia battuta, ma le Syndicat con Rectal Struggle dalla una cassetta appunto della metà degli anni Ottanta. E prima accennavo al fatto che tra vuoto appunto pieno e sperimentazioni insomma sonore su questo paradosso insomma ricercato insomma tante volte dentro molto molto industrial sound, industrial chiaramente è più legato a un noise, ma anche qua insomma la faccenda si fa piuttosto complicata, soprattutto insomma con il riascolto, con il senso del poi, no? Appunto, quindi in questo senso anche la riflessione sul trattamento sonoro brutista, in questo caso delle Syndicat, ma avete sentito anche quanto appunto anche qua il suono talmente riempito poi portasse a una sorta di svuotamento, quasi di azzeramento, e seppur una materia e un sottofondo mai liberato, insomma sempre brutalizzato, poi ci facesse anche un po' ipnotizzare rispetto a questa materia sonora. D'altronde proprio in quel periodo storico di passaggio insomma della seconda addirittura terza ondata industrial, c'erano, prima citavo, formazioni rieditate ad esempio con lavori storici, capolavori come Memonist, come Horde, appunto prima lo citavo, rieditato dalla Rare, quindi Chris Clatter, Rico, quasi mondi impensabili come collegamenti. Poi in realtà dentro le sperimentazioni ci sono veramente faccende che crescono, deletezzarsi in maniera incredibile, a comunicare e a creare delle sintesi sonore eccezionali, come appunto quel lavoro di Memonist, Horde, ma anche come lavori non soltanto rieditati dalla Rare, ma anche editati nel vero senso della parola, insomma, quindi stampati proprio in prime copie, e come un altro gruppo assolutamente sperimentale, anch'esso dentro così il calderone, chiamiamolo così, industrial, come Organum, dove veramente si andava quasi dentro la composizione contemporanea, non soltanto quindi future jazz, astrattezze, ma anche momenti di così svuotamento e riempimento che portavano queste musiche, una sorta di patafisica, di momento così allucinatorio, svuotato nella propria pienezza, ecco. E le Syndicat insomma appartenevano insomma a quella grande area grigia, come poi è stata chiamata da Daniel Miller, della Mute, con tante ristampe insomma di lavori storici dell'industrial, che si muoveva appunto tra una caratterizzazione del vecchio industrial e di quello che poi diventerà il trattamento appunto del nuovo noise, una nuova esplorazione, ecco, magari tante volte così più letta in senso estetico, quindi di brutalizzazione un po' fine a se stesso. In realtà le faccende insomma avevano una proiezione musicale, sonora, immaginativa, sonora appunto decisamente spostati in avanti, tant'è che personaggi come Peter Reberg si ciberà per anni e anni nella sua gioventù di musiche di questo tipo, fino ad arrivare alla pubblicazione di uno dei suoi grandi eroi, lo dicevamo nella scorsa trasmissione, e tra l'altro insomma anche appunto inserito lo storico insomma White House dentro il nuovo progetto della edizione Mego, e quindi insomma anche un cerchio che in una certa qual misura non si va a chiudere, ma va a generare nuove nuove ondate, nuove spirali sonore, insomma faccende che portano poi di conseguenza ad altro, ad un altrove che Pita insomma cerca in maniera continuativa, cerca adesso soprattutto con il lavoro di produttore che assorbe quasi del tutto lo storico sperimentatore di tanti lavori editi tra la fine degli anni 90 fino ad arrivare insomma alla fine degli anni zero, dove riusciva ancora insomma a far uscire lavori a proprio nome, come appunto Pita, con questo moniker a cui era particolarmente attaccato, a cui è ancora attaccato, visto che poi dal vivo si può ancora sentire un concerto eccezionale in Albert Gein qualche settimana fa, insieme a Orhan Barci, quindi momenti che portano evidentemente insomma le musiche a uno spostamento non soltanto progressivo, anche a volte intermittente verso nuovi lidi sonori. Lo andiamo a prendere da uno dei suoi dischi più espliciti in termini di riferimenti appunto storici, come quelli di questa sera, di questi vuoti e pieni, e Abba, la cultura marchandà, dove appunto già dal titolo insomma manda al diavolo insomma il prodotto commerciale, sia in senso estetico musicale che anche in fatto strutturale, lavorando appunto su un suono digitalizzato estremo, su un noise che diventa magistrale con lui nella lavorazione appunto digitale, e quindi con tutte anche le possibilità date dalla digitalizzazione del noise. Prima accennavamo appunto alle due parti di carriera, di esperienza sonora di Merzbo tra analogico e digitale, con insomma parallelismi che si potrebbero fare in chiave analogica con Mauthausen Orchestra, con Maurizio Bianchi, tra l'altro appunto come accennavo all'inizio concluderà la trasmissione insieme a Trax Morghe, e poi con la digitalizzazione che dagli anni 90 sarà presa a piene mani appunto da un Pita, facendola spostare nuovamente anche verso sonorità che l'Amigo tuttora, anzi forse potenziando il grande carattere sperimentale che ha sempre avuto questa etichetta, proprio in questi giorni sta portando a nuove esperienze, non soltanto insomma con William Bennett che si reinventa dentro l'Amigo, William Bennett insomma di White House, ma anche con lavori appunto di giovanissimi sperimentatori dentro tecno, disastri e vuoti e pieni appunto musicali tra digitalizzazioni ancora estreme e momenti di rivisitazione geniale anche per molti versi di musiche che appunto hanno influenzato lo stesso Pita, che andiamo a sentire da questo mini LP del 2007, uno delle sue ultime uscite a nome Pita. Poi vabbè, avrà modo insomma di fare ottime cose con il Metal Drone di KTL, quindi con Stefano Malle negli anni 10, e appunto ascoltando e come dire anche qua rievocando echi che si rincorrono in maniera decisamente rumorosa, con tanti giochi anche di specchi appunto rispetto alle musicalità che sono dentro questo Abba, la cultura marchandà di Pita, che andiamo appunto ad ascoltare. Abbiamo ascoltato appunto Pita dalla sua bala Culture Marchandà, dove appunto questi vuoti pieni con tanto appunto di rimandi, immaginari sonori vanno a impattare dentro momenti ottundenti quanto invece azzeranti, quasi anche qua a cercare un paradosso nel suono e nella strutturazione tra riempimento totale e defagrante e svuotamento appunto che anche qua porta al grado zero, se vogliamo, di molte musiche, a quello che insomma tante volte è stato cercato, alcune volte trovato, altre volte meno, il grado zero musicale, molte musiche noise, è un prodo, un tentativo insomma di arrivare a un perpetuo mobile, anche citando insomma Estuzendo Bauto, un disco tra l'altro non particolarmente riuscito, ma proprio per così calare il discorso dentro uno dei leitmotiv più forti di molta cultura noise industrial, power electronics eccetera. E ho accennato più di una volta insomma, ma l'importanza insomma di questo disco non è soltanto affettiva ed emotiva, perché insomma esce dopo la morte di Marco Corbelli, in arte Atrax Morgue, lavoro insomma particolarmente suggestivo anche per questo aspetto, dedicato a lui appunto da parte di Maurizio Bianchi, che fa proprio un'esplorazione sonora con Atrax Morgue, con Marco Corbelli, anche qua momenti di grande anche ispirazione, portate sì a un livello poetico anche estremo, con questo senso insomma mortale che aleggia in tutte e due, purtroppo in Corbelli poi avrà anche insomma esiti piuttosto nefasti, visto che concluderà insomma la sua vita proprio per mano propria, e Bianchi invece avrà momenti insomma di così anche negazione quasi di musicale di se stesso, insomma abbandonando le scene per un po' di anni, poi comunque tornando con un'ispirazione anche piuttosto insomma forte, tanto insomma che incontra sicuramente più giovane di lui Atrax Morgue, che gli è molto debitore, e fanno questo disco M plus T, molto veramente molto ispirato, oltre che insomma la grande fascinazione che hanno certi esperimenti e certi momenti anche così legati appunto alla memoria sperimentale, anche sperimentata anche per molti aspetti, di un senso profondo insomma vitale, per quanto insomma paradossale, di Corbelli, anche un disco appunto che a livello sonoro è molto molto molto sentito, molto forte, sottolineando appunto la caratura anche del grande Maurizio Bianchi, ormai anche egli portato dalle nuove generazioni a essere insomma dei punti di riferimento magistrali, ecco, rispetto al trattamento del noise, anche qua un suono che va a cercare un vuoto pieno quasi, e anche a trovare momenti di paradossali, anche abbaglio sonoro, anche momenti di appunto bellezza abbacinante. E vi lascio appunto su questo Todd di Maurizio Bianchi insieme a Atrax Morgue, vi rimando al prossimo 451 frammenti sonori, al prossimo anche 451 intersezioni, e tuffatevi dentro questo suono debordante, bellissimo appunto nel suo dilatarsi in maniera indeterminata. Maurizio Bianchi e Atrax Morgue appunto dentro questo vuoto pieno di 451. Ciao da Max Macchia.